in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Siamo già arrivati all'ultima domenica di gennaio. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che sceglie di titolare sulle dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, Visco, fatte ieri al consueto convegno Assium Forex che quest'anno si è tenuto a Modena. Il titolo scelto dal Sole 24 Ore è un virgolettato di Visco: riforme avanti, niente scorciatoie. In realtà il governatore, come trovate poi da pagina 2 a pagina 4, ha parlato di tutto, dalle crisi bancarie alle prospettive in generale dell'Italia, del sistema bancario, del sistema paese dal punto di vista industriale, e naturalmente ci sono sullo sfondo i tanti temi come quello che trovate poi sulla copertina del dorso di Finanza, delle pagine di Finanza, della possibile acquisizione da parte di Intesa di Generali. E a questo è dedicato il commento di Luigi Zingale, meritocrazia e diarchie, e il titolo è quella peggiocrazia che rischia di uccidere Generali. Vedremo appunto come si evolve questa settimana la vicenda. Poi naturalmente la notizia su Trump con un commento di Mario Platero: il caos in nome delle promesse. Su Trump titola il Corriere della Sera, titolo principale: Trump ferma gli immigrati. La cronaca l'avete sentita già fin da ieri, che sono stati bloccati in aeroporto o negli aeroporti di partenza o in quelli di arrivo gli immigrati di 7 paesi, che sono per la precisione Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen. E come vedete salta all'occhio l'assenza di Arabia Saudita e Afghanistan, che sono i due paesi da cui sono arrivati la maggior parte degli attentatori, dei gravissimi attentati negli Stati Uniti, a partire naturalmente da quello dell'11 settembre 2001. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera, c'è anche sul Sole, anche su altri giornali, l'aggiornamento, che del resto avete sentito anche nei GR, delle vicende politiche. Da una parte quello che a tutti pare uno scontro tra il ministro della giustizia Orlando e il presidente della ANM, che soprattutto è partito dalla vicenda dell'età pensionabile, prima abbassata e poi rialzata solo per alcuni magistrati, e questo è un po' il punto centrale della discordia, ma in realtà lo scontro, come avete sentito, riguarda anche molte altre cose. E poi c'è lo scambio a distanza tra Renzi e D'Alema sulla possibile data del voto. In edicola con La Repubblica, che titola proprio sulla questione politica con questo titolo: PD duello sul voto anticipato. D'Alema ha fatto intendere che il partito, lui più che il partito perché il resto è da vedere, pronti alla scissione. Renzi ha replicato senza nominarlo, anzi facendogli gli auguri e salutandolo cortesemente. Insomma, c'è molta, come al solito, più ironia che sostanza in tutti questi, sembra a me almeno, in tutti questi scambi, per di più, ripeto, a distanza, cioè non si confrontassero una volta per tutte con un faccia a faccia e non da un palco soprattutto. Ma in ogni caso, questo è il titolo scelto dalla Repubblica, che poi subito sotto a quello su Trump: no a rifugiati e immigrati, stop ai visti, caos negli aeroporti. E c'è una divertente vignetta di Altan, c'è un Trump, chiaramente Trump per via del capello arancione, tipo naturalmente bandiera, perché con il suo riporto magnifico di quello di Trump naturalmente, e il personaggio dice: è ora, bulli di tutto il mondo, unitevi. A Trump è dedicata anche la copertina dell'Espresso, che come sempre è in edicola con La Repubblica alla domenica. Il mondo dopo Trump, sicuramente non ci sono gli aggiornamenti di cronaca, perché essendo un settimanale avrà sicuramente chiuso prima che venisse firmato questo decreto, chiamiamolo così, di Trump sullo stop agli arrivi, più che gli immigrati, chiamiamoli proprio arrivi, perché sono state fermate ogni tipo di persone, basta che appunto avessero il passaporto di uno di quei 7 paesi che abbiamo nominato. Sulla copertina c'è un disegno del mondo che però sembra un uovo spezzato. A spezzarlo è stato un martello che è la T di Trump. Il mondo dopo Trump, l'ordine che reggeva il pianeta dal 1989, cioè l'anno della caduta del muro, che tutti identificano come l'entrata in una nuova era della politica mondiale, la fine della guerra, fine vera della guerra fredda. L'ordine che reggeva il pianeta dal 1989 si è rotto, i popoli hanno fatto crollare il modello globale, nascono nuovi equilibri. Viaggio nella grande sfida del futuro. La prima pagina del Messaggero, anche in questo caso, è dedicata a Trump, che blocca gli immigrati con tutti gli approfondimenti. Vi segnalo però la fotonotizia dedicata alle sorelle Williams. Sapete che gli Australian Open, il torneo del grande slam, si sta chiudendo con due incredibili sfide, quella appunto tra le due sorelle Williams e poi quella che ci sarà oggi tra Roger Federer e Rafa Nadal. In prima pagina del Messaggero però viene anche richiamata un'intervista di cui poi leggeremo una piccola parte, concessa da Berlusconi e titolata "Temo la grande coalizione al voto con Lega e Destra". E naturalmente a Berlusconi hanno fatto anche una domanda su questo processo Rubiter, quello per il quale è stato rinviato a giudizio ieri, e la sua risposta sinteticamente è "Resto senza parole, io sono di nuovo centrale e tornano a colpirmi". La Stampa, come Corriere e Messaggero, immigrazione, il pugno di Trump. La fotonotizia però completamente diversa da quella degli altri giornali è dedicata a una mossa del sindaco di Barcellona Ada Colau, che dice "troppi turisti nella nostra città e quindi basta costruzione di alberghi nel centro storico". Ci sono state moltissime reazioni, tra cui naturalmente quella dei grandi investitori che sono dietro ai grandi gruppi immobiliari che operano soprattutto nel settore dell'alberghiero, che dicono questo sarà una iattura per tutti. Ma ci sono state proprio anche delle proteste, cioè probabilmente la decisione di questo sindaco viene anche dall'aver ascoltato i cittadini, perché ieri c'è stata, questa è la fotonotizia, questa manifestazione a Barcellona e in prima fila c'erano i bambini, che appunto è una delle idee è quella di ridare il centro storico, dargli altre destinazioni oltre che quella per gli hotel destinati soprattutto ai turisti. Avvenire ha una foto di Trump in controluce, quindi se ne vede solo la silhouette, naturalmente anche del fantastico riporto, e il titolo è "Il signore dei muri". Né latinos né rifugiati islamici, Trump chiude un'altra porta, quindi il riferimento è al muro appunto che ha ribadito, il presidente ha ribadito di voler costruire al confine con il Messico, e poi quella che Avvenire definisce l'altra porta, cioè la porta chiusa appunto alle persone che arrivano da questi 7 paesi di cui abbiamo detto. Il Giornale ha un'apertura ancora diversa, un'inchiesta del Giornale che viene definita una denuncia shock. Avrete forse ricorderete nei giorni scorsi la notizia di purtroppo l'ennesimo crollo di una parte di Pompei. Si indaga sui sindacati, scrive il Giornale, custodi nel mirino dei carabinieri, e il sovrintendente ha anche dichiarato "mi ricattano", quindi ancora una brutta storia che vede coinvolti alcuni sindacalisti. Naturalmente appunto vedremo come si evolverà questa inchiesta e se qualcuno, come il Giornale, ne darà notizia, perché poi a volte vengono messe in prima pagina queste inchieste e poi se per caso a qualcuno resta la curiosità di vedere come vanno le cose, però poi non si riescono ad avere aggiornamenti. Anche il Manifesto si concentra su Trump, questa volta Trump è al telefono. Qui il riporto quasi non si vede, se uno non lo sa non lo vede, non sono ossessionata dal riporto di Trump, che lo trovo veramente divertente, non comico ma perlomeno divertente. Il titolo è "C'era una volta l'America, schiaffo di Trump alle origini migranti degli USA". Chiamiamo tutti gli Stati Uniti, ci è capitato credo a tutti qualche volta di chiamarlo "o melting pot", cioè il grande calderone che ha mescolato tante culture, tante razze, tante popolazioni. Oppure abbiamo sempre detto il paese dell'immigrazione, il paese delle opportunità. È molto simbolica appunto questa chiusura di ieri di Trump, le persone che provengono da 7 paesi. Scusate un attimo. Eccomi, scusate. Però in prima pagina sul Manifesto, subito sopra la fotonotizia di Trump, le vicende politiche, perché una delle... La parte del discorso di Renzi su cui si concentra il manifesto è quello dove ha parlato delle elezioni e ha detto dobbiamo puntare ad avere il 40%, il famoso 40% che era stato ottenuto l'ultima volta dal PD alle elezioni europee, che avevano proprio poi lanciato Renzi verso la premiership, e secondo il manifesto questa è la parte più importante, anche se c'è subito accanto un reportage da dove ha parlato D'Alema. D'Alema lancia il suo quasi partito, il ritorno dell'ex premier, tutti e due ex premier in realtà. La Verità, ancora un titolo diverso, anche qui frutto di un approfondimento che ha fatto La Verità, i disabili trasformati in tassa. C'è infatti un articolo del Jobs Act che scarica il welfare sui privati in questo senso. Da febbraio le 100.000 aziende che contano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno obbligate ad assumere, scrive La Verità, un handicappato. Subito sotto, Trump chiude la porta ai musulmani. Il Fatto Quotidiano invece, che è sicuramente un quotidiano molto attento alla cronaca giudiziaria e in generale alle vicende che riguardano la giustizia, per esempio tra i suoi editorialisti sapete c'è anche Bruno Tinti, ex magistrato, autore di molti libri sulle difficoltà del sistema della giustizia in generale in Italia, e Il Fatto titola con un virgolettato di Pier Camillo Davigo, che è il presidente della ANM, che tra l'altro ieri, giorno di inaugurazione di molti anni giudiziari in molti luoghi d'Italia, sono anche stati dati molti numeri che denunciano la crisi alcuni punti critici che minano appunto il funzionamento della giustizia in Italia. E il virgolettato è: governo contro la Costituzione vuole scegliersi i giudici preferiti. Abbiamo visto appunto tutto il contendere parte da questa misura che aveva prima abbassato l'età pensionabile dei magistrati e poi l'aveva rialzata soltanto per alcuni, e da qui, secondo Davigo, l'assunto che questa è una mossa del governo, della politica in generale, per scegliersi i giudici preferiti. Ricordiamo che il ministro Orlando ha risposto subito: non credo di aver mai pensato, perché Davigo ha detto non voglio essere ricordato come il presidente della ANM che ha lasciato che la politica scegliesse i giudici, Orlando gli ha risposto e io non voglio essere ricordato come Davigo aveva ironicamente ipotizzato, come il ministro della giustizia che ha fatto appunto questa scelta per il governo. Ultima pagina prima di una breve pausa per la pubblicità, e il Meteo: Libero, Trump, due punti, basta musulmani. E poi una fotonotizia dedicata alla manifestazione che c'è stata ieri a Roma con protagonisti Toti di Forza Italia, governatore della Liguria, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini della Lega. Ci sentiamo tra pochi minuti. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo guardato tutte le prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Ora ci spostiamo all'interno dei quotidiani. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un articolo che dà un po' un segno di ottimismo per questo 2017. Sappiamo, noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, l'industria è importantissima per l'economia italiana, e quindi il titolo dell'articolo di Matteo Meneghello sulla copertina di Imprese e Territori: siderurgia mondiale in ripresa, Italia, India e Turchia i paesi dove il settore acciaio è cresciuto più rapidamente. Naturalmente c'è il grande problema dell'Ilva di Taranto, ma spiega Domenico Palmiotti, proprio da Taranto, che l'obiettivo è di 8 milioni di tonnellate di produzione annua, salvaguardando il ciclo integrativo, partendo dal fatto che l'Ilva di Taranto aveva chiuso il 2006 con 5,8 milioni di tonnellate, in crescita già del 23% sul 2015. La consueta pagina dedicata a sport e business, che esce sia sabato, l'abbiamo vista ieri, dedicata al calciomercato, sia alla domenica. E oggi l'articolo principale di Marco Bellinazzo: Made in Italy Big dello Sport System, un gioiello che vale 8 miliardi all'anno. L'export dell'industria sportiva tricolore, quindi si va dagli sci alle biciclette, è un gioiello che vale 8 miliardi all'anno appunto, e assorbe il 60% dell'export di industria in generale, con bici e outdoor in prima fila. Sul Corriere della Sera ho trovato un'intervista di Giuseppe Guastella al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che tocca naturalmente lo scontro, l'attuale scontro con la ANM. Vi leggo la domanda, che è: il presidente dell'ANM Piercamillo Davigo ha criticato l'innalzamento a 72 anni dell'età pensionabile per i capi dei principali uffici, parlando di rischio per l'indipendenza della magistratura. Perché sapete che c'era stato prima l'abbassamento a 70 da 75, poi appunto questo rialzo a 72, ma solo per alcuni magistrati. E la risposta di Orlando è: un confronto su questo tema è sempre possibile se impostato in modo corretto. Non mi considero un nemico della magistratura e credo di averne sempre tutelato autonomia e indipendenza. Non credo sia giusto porre la questione del governo che si sceglierebbe i magistrati, perché i magistrati, i capi degli uffici, li sceglie il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Noto però che nessuno usò lo stesso argomento quando in passato l'età pensionabile fu innalzata a 75 anni, cristallizzando posizioni per un periodo molto prolungato di tempo. Cioè, in realtà si potrebbe dire, sì, Davigo in realtà si riferiva proprio al fatto che quando poi la norma è stata corretta solo per alcuni. In ogni caso temo purtroppo che lo scontro continuerà. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera un articolo, questa volta anzi una un'inchiesta su due pagine di Dario Di Vico. Milano, record di donne che lavorano e conquistano le nuove professioni. C'è appunto questi dati dai quali emerge che si è ridotto a Milano il divario con i maschi. Meglio addirittura, pensate, di Stoccolma, che come tante città del nord Europa viene presa come esempio nell'occupazione delle donne, meglio di Stoccolma per la qualità dei posti occupati. E a proposito di donne e di paesi del nord Europa dove raggiungono posizioni magari considerate prettamente maschili, a pagina 15 della Repubblica Andrea Tarquini ci racconta la storia di Tonie Skinnerland, che ha 49 anni ed è la prima donna capo di stato maggiore di un'intera forza aerea. Norvegia, il volo di Tonie, prima donna al mondo a comandare i Top Gun. Invece un altro personaggio ce lo racconta, la domenica è bello leggere queste storie, avere un po' più di tempo appunto per allontanarsi un pochino dalla cronaca. Un'altra bella storia sempre su Repubblica ce la racconta Paolo Rodari, si intitola L'uomo che apre le porte dei capolavori vaticani. Ho le chiavi del paradiso. Chi è questo signore? Si chiama Gianni Crea, è il capo dei cosiddetti clavigeri, cioè appunto di coloro che hanno le chiavi e aprono le porte dei musei della Santa Sede. Ogni mattina, quando entro nella Cappella Sistina, mi sento un privilegiato. Qui vi dicevo dell'intervista di Berlusconi al Messaggero. Allora, il Messaggero pubblica a pagina 6 la cronaca giudiziaria. Quindi Rubiter, Berlusconi rinviato a giudizio, soldi alle oggettine e c'è uno schemino riassuntivo che parla del processo Rubi, il processo Rubi bis e adesso il processo Rubiter con questo rinvio a giudizio fissato per il 5 aprile 2017. Ma nell'intervista viene fatta poi, che è a pagina 7, a cura di Barbara Jerkove, occupa quasi tutta la pagina, vengono fatte molte domande, vi leggo in particolare questa, chiede Barbara Jerkove. L'accusa parla di corruzione di testimoni, cioè le oggettine appunto sarebbero state strapagate, su alcuni giornali ci sono anche tutte le cifre esatte, per poi dare false testimonianze durante i processi, questa è l'accusa. E Berlusconi risponde: mi sono solo sentito in dovere di aiutarle. Le ho aiutate, le aiuto e le aiuterò. L'ho fatto pubblicamente alla luce del sole, con bonifici bancari, il mezzo più trasparente e tracciabile che esiste. L'ho raccontato in tante occasioni, in colloqui privati, in discorsi pubblici e in interviste alla stampa e alla TV e anche alla stessa magistratura in epoca non sospetta. Se avessi voluto corrompere qualcuno, avrei usato questi mezzi? È uno strano modo quello di comprare il silenzio di qualcuno raccontandolo a migliaia di persone. Eppure la magistratura italiana ha dedicato e dedica uomini, risorse e denaro a questa indagine. Senza una prova, senza un riscontro concreto, senza una foto o un filmato, contro le dichiarazioni univoche di decine di testimoni. Intanto i reati veri dilagano. E questa è un po' la risposta di Berlusconi. Poi sapete che i suoi avvocati hanno usato questa frase abbastanza suggestiva, devo dire, perché naturalmente è un paradosso, che questa accusa a Berlusconi sarebbe il primo caso di accusa per aver commesso un cosiddetto reato di generosità. Vi segnalo dalla Stampa, anche perché un ascoltatore ci segnalava proprio il link a questa notizia, che dalla Stampa pagina 14, la Nord Corea riattiva i reattori nucleari. È stato rivelato infatti dai satelliti fumo dal sistema di raffreddamento del sito di Yongbyon, che, pensate, secondo gli accordi internazionali, gli impegni presi a livello internazionale dalla Nord Corea, avrebbe dovuto essere dismesso nel 2015. Nella stessa pagina dedicata appunto a storie dall'estero, spesso così dimenticate se non c'è un forte fatto di cronaca, e peraltro questo della Nord Corea mi sembra tale, nella stessa pagina un reportage di Carlo Pizzati da New Delhi, India fra falsi miti e propaganda, la storia secondo le milizie di Modi. I gruppi nazionalisti indù gestiscono 12.000 scuole private, nemici del secolarismo, sono il braccio armato del governo. Sapete che l'India è un po' l'eterna promessa dell'economia mondiale, nel senso che è un paese grandissimo, con una percentuale, con una età media molto bassa, quindi grandi potenzialità, allo stesso tempo però ha tantissimi problemi interni di disuguaglianze economiche, ma anche di integrazione di convivenza tra le diverse religioni. Forse io l'ho sentito prima di venire qui in replica, forse qualcuno di voi ha sentito ieri al Sabato del Villaggio il ricordo di Marco Giusti del Carosello, che ha compiuto 60 anni, o meglio 60 anni fa esordiva questa trasmissione, che era la pubblicità appunto in stile di tanti anni fa, non molto diversa da quella di oggi. A pagina 25 della Stampa, Giovanni De Luna, la nostra età dell'innocenza, la storica trasmissione, perché di pubblicità si trattava, ma era in realtà anche una vera e propria trasmissione, con tanto di sigla finale e iniziale, la storica trasmissione esordì sulla TV di Stato 60 anni fa, rispecchiava il paese del boom che scopriva il consumismo e la tentazione del superfluo, che poi tale è rimasto, perché tanti dei nostri consumi sono decisamente superflui. Articolo interessante sulla Stampa, a pagina 37, nelle pagine che ogni domenica la Stampa dedica ai motori, ma qui si parla di questo test messo a punto dalla Ford, che si chiama Driving Skills for Life. È una specie di videogioco che fa capire come si vede, o meglio non si vede, quando ci si mette al volante sotto l'effetto di alcol, magari anche più che sotto l'effetto, proprio ubriachi, o sotto l'effetto di droghe. Ci sono alcuni fotogrammi di questo videogame viene fatto questa sorta di videogame, viene fatto provare appunto ai giovani per far capire loro che quando si dice, in America lo slogan è don't drink and drive, non bevete e guidate contemporaneamente, non è così la raccomandazione di genitori troppo apprensivi, ma perché ci sono veramente, c'è un'alterazione molto grave della percezione visiva. A proposito di esteri, prima di lasciarci un attimo per l'ultima pausa per il traffico, dall'Avvenire un aggiornamento dalla Siria. La Siria è scomparsa completamente dalle cronache, ma in teoria ci sarebbe anche un processo di pace in corso, e quindi a pagina 18 dell'Avvenire, Assad libera gli acquedotti di Damasco, e intanto si apprende che Mosca, che è uno dei principali negoziatori, sta premendo perché venga adottata una nuova costituzione in Siria. Ci lasciamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o WhatsApp, e grazie in particolare a Giancarlo da Verona, che è preoccupato per la mia salute, ma no, soltanto un po' di raffreddore e mal di gola, per fortuna tutto il resto dell'influenza che ha colpito tantissimo, oddio, magari mi succederà, non mi ha colpita, c'ho solo questa voce un po' bassa e qualche colpo di tosse di cui mi scuso. Eravamo sulle pagine dell'Avvenire, che ha un bellissimo approfondimento, un reportage dall'Iran. Di Iran sicuramente dovremo parlare molto nei prossimi giorni, perché il fatto che sia stato incluso da Trump in questa lista di 7 paesi dai quali le persone non possono più andare negli Stati Uniti a parte la dichiarazione immediata del presidente Rouhani, che ha detto prenderemo provvedimenti, ma naturalmente sullo sfondo c'è il grande accordo siglato da Obama per riconciliarsi e togliere le sanzioni economiche al paese. È un accordo, per esempio, osteggiato fin dall'inizio da Israele, e siccome sappiamo che Trump ha subito stabilito dei rapporti molto forti con l'attuale premier israeliano Netanyahu, appunto, questa è una vicenda molto delicata. Da qui, ripeto, molto interessante questo reportage intitolato La corsa del nuovo Iran verso la svolta di maggio, perché l'Iran si appresta, come tanti altri paesi nel 2017, ad andare a votare, e vedremo appunto se nel frattempo ci saranno delle conseguenze di queste decisioni di Trump. Prima di passare ai supplementi domenicali, come sempre ogni domenica, sempre dall'Avvenire, mi ha molto colpito questa recensione. Io non nascondo di essere una grande fan dell'Avvenire, credo che facciano un giornale equilibrato, attento a tantissimi luoghi e argomenti che magari altri si dimenticano. Questa recensione mi ha veramente stupito, perché è la recensione di un libro che si chiama Box, che ha appena vinto un premio in Francia. E questo signore che lo recensisce, questo Fabrice Ajadi, ne parla benissimo, e veramente mi ha colpito la prima parte, perché ai miei occhi, sicuramente non di grande conoscitrice della box, sostanzialmente si tratta di due uomini su una pedana che si picchiano selvaggiamente. Scrive invece Fabrice Ajadi: poche cose, a parte l'amore tra un uomo e una donna, sono forti eppure quanto il combattimento tra due uomini che si prendono risolutamente a pugni in faccia. E vabbè, e poi è molto argomentata questa recensione, la trovate a pagina 25 dell'Avvenire. Ma passiamo ai supplementi domenicali, in particolare al nostro, la domenica del Sole 24 Ore. Come sempre partiamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, perché tra l'altro secondo me veramente questa settimana è più attuale che mai. Si intitola Populismo, la citazione è di Niccolò Machiavelli ed è questa: trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiera e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. E il commento di Ravasi è: quando si sentono certi politici urlare parole d'ordine a masse adoranti, oppure si vede lo sventolio di bandiere agitate da folle, mentre gli altoparlanti lanciano attacchi verbali agli avversari, condendoli di parolacce per sembrare più incisivi e spregiudicati, sarebbe bello far apparire sugli schermi la frase che abbiamo sopra citato. Il lessico rivela che siamo distanti qualche secolo, ma la verità del messaggio pare adatta oggi. È l'implacabile Niccolò Machiavelli che gela con una battuta ogni tentazione populistica e demagogica, tanto di moda in questi tempi, e lo fa con un linguaggio così limpido da rendere superfluo e impacciato ogni commento. Lasciamo allora ancora la parola a lui nei suoi scritti di governo, ripulendo solo un po' il suo italiano 4-5-centesco. E la citazione finale è: cosa da deprecare non è il tempo che si consuma nel confronto. L'errore che non troverà mai rimedio è quello di risolvere ogni decisione per applauso. Questo è il breviario. Sulla prima pagina della domenica anche la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che prende spunto da un libro che gli è stato regalato, L'Italia dei sentieri frassati, che è un libro del CAI, dove si raccontano appunto tutti i sentieri alpini d'Italia, il piacere anche del camminare. Il piacere del camminare, della leggerezza, che secondo Roberto Napoletano, che poi ripercorre anche alcuni suoi ricordi di infanzia, è forse un piacere che in questa Italia un po' preoccupata per il suo futuro è sempre più difficile riscoprire. La copertina, il pezzo di apertura però vero e proprio, è dedicato a un libro che deve essere stupendo, che si intitola Disegni e calligrafia di Fyodor Dostoevskij. L'ha scritto Konstantin Barst e lo recensisce Serena Vitale, che è una delle più grandi esperte e conoscitrici di letteratura russa, anche una grandissima traduttrice di autori russi. Il titolo: Dostoevskij scriveva disegnando. Non schizzi, ma ritratti, abbozzi architettonici, esercizi calligrafici. La fucina dello scrittore è un tesoro anche visivo, finalmente riportato alla luce. E poi, quando si parla di Dostoevskij, spesso si pensa anche a Tolstoi, i due grandissimi protagonisti della letteratura russa dell'Ottocento. Il titolo della recensione di Goffredo Fofi a una nuova edizione del libro Che fare dunque, legge, archetipo e mito di Tolstoi, appunto, è: primo, non mentire a te stesso, un approccio concreto per affrontare i mali del mondo che si traduce in alcune regole ancora oggi molto attuali. E poi quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli che si intitolano C'è qualcuno che sa leggere, una iniziativa del Sole 24 Ore che è arrivata già alla sua 14ª settimana. Il pezzo principale questa settimana è di Franco Lorenzoni e si intitola Voglio la luna da disegnare. Perché il nostro satellite cambia forma? Come spiegarlo ai bambini? Un gioco per imparare a leggere il cielo dipingendolo. Un gioco da fare senza fretta sotto la guida di Lucrezio. Lucrezio naturalmente è il grande autore latino, autore del De Rerum Natura. Una cosa molto interessante, chissà se se ne parlerà anche in futuro perché mi sembra davvero una novità, sapete che esiste per i medici il giuramento di Ippocrate, che è un giuramento che veramente ogni medico deve fare quando si laurea e che lo obbliga a una serie di precetti che riguardano la sua professione e soprattutto il rapporto con i pazienti. E Salvatore Settis ci spiega, ha adottato il giuramento di Vitruvio, uno dei più grandi architetti dell'antichità. Il titolo di questo racconto è Architetture antiscempio, quindi un manifesto, un giuramento che potrebbe chiamare anche gli architetti, come dovrebbero essere, come dovrebbe succedere per tutti i medici, a seguire proprio delle regole etiche al di là della committenza, avere dei propri principi, soprattutto appunto per evitare di disegnare o far costruire degli quelli che Salvatore Settis definisce gli scempi. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, ha una copertina affidata a un artista che questa settimana è Waleed Raad, e dalle pagine interne vi segnalo un lungo reportage di Serena Danna che ha sentito molti intellettuali americani. È circolata in questi giorni l'ipotesi che Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, voglia entrare in politica, addirittura candidarsi a essere il cosiddetto anti-Trump, si è impegnato, ha già detto, e questo è stato lo spunto principale, che nel 2017 visiterà tutti gli Stati Uniti per conoscere forse anche lui più profondamente il suo paese, e da qui il titolo dell'articolo di Serena Danna, Zuckerberg for President, la voce più insistente delle ultime settimane. Lui smentisce, ma molti credono sia possibile, o un modo per proteggersi dai guai, tra parentesi, da Trump. Ultimissima segnalazione, la copertina di Robinson, il supplemento domenicale della Repubblica. Questa volta è arrivato al numero 9, quindi recente anche questo, copertina dedicata al Giappone in generale, lezioni giapponesi, quindi dai film d'animazione al cibo, dai manga al grandissimo autore Murakami, da Hokusai, il pittore che tra l'altro ha fatto veramente un boom di turisti con la sua ultima mostra qui a Milano insieme ad altri due artisti giapponesi. L'Italia è sempre più affascinata da questa estetica, guida un paese antico e insieme modernissimo. Ultima segnalazione per oggi, grazie a Viter Bescafè in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, una buona domenica da Giulia Crivelli.